qualche cosa negli occhi di un'altra ti farà. I miei occhi che t'amavano tanto. È lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un'altra troverai. Mi prendevi un po' in giro. È lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti farà. Tu amavi tanto. È lontano, lontano nel mondo, una sera tu sarai con un'altra e ad un tratto chissà come perché ti accorgerai di parlare.